L'altra Europa. 8 minuti dopo le 12, buon sabato da Federico Taddia, benvenuti, siamo in diretta, Radio 24, L'altra Europa, il nostro appuntamento settimanale per raccontarvi l'Europa delle persone, delle storie, delle possibilità e delle opportunità, un programma in collaborazione con il network Euronet Plus, le coordinate per seguirci anche virtualmente, radio24.it, il nostro sito, euronetplus.eu invece il portale del network al quale apparteniamo, e ancora i social, chiocciola euronetplus r24, oppure il mio account personale, chiocciola Federico Taddia, Twitter e Facebook, per trovare tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare. Ogni settimana un viaggio, oggi si parte dalla Palestina. Felt like the weight of the world was on my shoulders. Pressure to break or retreat at every turn. Facing the fear that the truth had discovered. No telling how all this will work out, but I've come too far to go back now. I am looking for freedom, looking for freedom, and to find it cost me everything I had. Si chiama Erasmus Plus Palestine Project, è un progetto innovativo voluto dall'Università di Siena. Andiamo a scoprire di cosa si tratta, lo facciamo con Gabriele Usberti, docente del Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive dell'Università Senese, coordinatore del progetto. Buongiorno, buon sabato Usberti. Buongiorno, buongiorno. Erasmus Plus in Palestina, credo un primo tentativo, un'iniziativa forse unica in Italia per attivare sinergie accademiche tra Italia e Palestina, giusto? Sì, sì, sì. Devo dire che sono stato abbastanza sorpreso di dire che è l'unico, spero che sia il primo, ecco, che ce ne siano altri. Però. Da dove parte l'intuizione e come mai questa, insomma, questo desiderio di attivare questa collaborazione? Ma l'intuizione parte da una sensibilità mia personale, diciamo, per il problema arabo-palestinese che va avanti da molti anni, insomma, che ha origini così nella mia storia personale, che poi però si è incontrata con una decisa disponibilità da parte dell'Ateneo Senese a mettere in piedi un programma, diciamo Erasmus Plus di questo genere, vista che si è aperta questa possibilità a livello europeo di programmi di scambio, plus appunto diciamo indica questo nuovo orientamento dei programmi Erasmus rivolti a paesi extraeuropei. Sì. L'Ateneo ha presentato diversi programmi e devo dire che è stata una sorpresa molto piacevole e anche interessante, secondo me, il fatto che questo programma rivolto alla Palestina sia stato privilegiato, cioè sia stato finanziato piuttosto che gli altri. Ecco. Certo, e ci sarà la possibilità quindi per studenti dell'Università di Siena di fare esperienze in Palestina e viceversa, credo, anche studenti palestinesi. Dunque, il programma è biennale e prevede per il primo anno la venuta di 8 docenti palestinesi, per il secondo anno la venuta di 8 studenti palestinesi per un periodo di studio fino a 6 mesi, cioè un semestre sostanzialmente. Certo. Mm-hmm. I docenti invece per un periodo massimo di 3 settimane. Mentre alcuni anche, cioè c'è la possibilità anche di che i nostri studenti vadano là, però in modo, cioè diciamo non è, diciamo sono meno gli studenti nostri che possono andare là. Potrebbero essere 3 e forse si possono incrementare le borse, anche perché c'è stata un'entusiastica adesione da parte di molti studenti. Ma quindi prevedete che gli studenti italiani eventualmente potrebbero andare quando? Già nel secondo anno o già nel prossimo anno accademico? Già no, nel secondo anno, anno che è il prossimo anno accademico, perché il primo è già in corso ed è. Quindi a partire dall'anno prossimo, un numero che dobbiamo ancora definire esattamente, minimo tre, ma probabilmente saranno di più, saranno sei o sette, potranno andare per un periodo fino a tre mesi in Palestina per soggiorni di studio, per scrivere la tesi, per sostenere esami, cioè come in ogni programma Erasmus. Professore, leggevo dei docenti appunto che sono venuti in Italia, ma colpito, adesso probabilmente lo pronuncerò in maniera errata, Mazine Kumsieh, okay? Biologo dell'Università di Betlemme e direttore del Museo Nazionale di Storia Naturale della Palestina, che ha raccontato come si fa a fare ricerca e divulgazione sotto occupazione. Cosa l'ha colpita? Qual è stato il cuore del suo messaggio? Ma intanto volevo premettere che le università che partecipano a questo progetto non le abbiamo scelte noi. Noi abbiamo mandato in giro a varie università, quasi tutte le università palestinesi, compresa Gaza, una richiesta, diciamo, di adesione al progetto. Sì. Quelle che di fatto hanno risposto sono state quattro università, cioè Betlemme, Al-Quds di Gerusalemme, An-Najah di Nablus e Bir Zeit di Ramallah. Questo docente in particolare, Mazin Kumsieh, sembra che abbia una storia molto interessante, nel senso che è un biologo di formazione e anche medico, ha lavorato per credo circa 15 anni negli Stati Uniti, dove, come mi ha raccontato, guadagnava molto, sì. Aveva un'ottima posizione dove faceva ricerca in ambito genetico. A un certo punto ha deciso di tornare in Palestina con i soldi che aveva, fatto una donazione all'Università di Betlemme, è stato comprato dall'università con questi fondi un terreno e con l'idea di aprire lì in questo terreno un museo di storia naturale. Mm-hmm. E niente, lui sta dedicando tutte le sue energie allo sviluppo di questo progetto in Palestina. Mm-hmm. Quindi l'ho messo in contatto qui a Siena. Noi abbiamo una bellissima istituzione che è l'Accademia dei Fisiocritici, che è un vecchio museo di storia naturale che risale addirittura al 700. Speriamo che nasca una collaborazione tra i due musei, oltre che con i nostri istituti biologici con i quali Mazin Kumsieh è già in contatto. Ecco, questo è un esempio di quello che è il cuore del progetto. Esatto. Grazie, esatto. Sberti. Ricordiamo il sito www.unisi.it, ma ci ritroveremo sicuramente nel prossimo anno accademico per raccontare l'esperienza che gli studenti italiani faranno in Palestina e viceversa. Grazie e buon lavoro. Grazie. Arrivederci. Ci fermiamo, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'Alta Europa. Europostit. Insegnare l'Europa. Alla Sapienza, il master per docenti. A tutti gli insegnanti e dirigenti scolastici interessati ad approfondire le materie europee. Unitelma e l'Università La Sapienza di Roma organizzano Insegnare l'Europa, il master di 12 mesi dedicato ai docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado. I partecipanti seguiranno un programma didattico basato su video lezioni online e lezioni in aula. Le materie affrontate dal corso riguardano elementi di diritto dell'Unione Europea, il processo di integrazione europea, gli ambiti di intervento, le politiche e le competenze dell'Unione Europea, la dimensione europea dell'educazione, la politica sociale e ambientale e le politiche della salute e dell'alimentazione. Tutte le informazioni nella sezione master del sito unitelmasapienza.it. L'altra Europa. On. Un osservatorio privilegiato sulle problematiche e i dibattiti riguardanti l'Europa sociale. Questo è lo scopo di euvisions.eu, il nuovo sito dell'osservatorio e centro di raccolta dati sull'Europa sociale nato all'interno di Resc.eu. Ne parliamo con Pier Domenico Tortola, che deve essere, se non erro, il direttore di euvisions.eu. Buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno a lei. Avevo un Piero e un Pier Domenico, valgono entrambi, vero? Valgono entrambi, sì. Grazie. Che cos'è euvisions? Nasce da quale esigenza? Come ha detto lei, euvisions è un osservatorio sui temi europei, principalmente quelli economici e sociali. Nasce un po' dall'esigenza di connettere l'accademia, la politica, i decisori politici e un pubblico più ampio per la comprensione di questi temi e per la possibilità poi di prendere decisioni più informate a tutti i livelli, dagli elettori a, come ho detto, i decisori politici. E quale target vi immaginate? Per chi è pensato prevalentemente? Ma come ho detto, il target è, come dire, è vario, è un target di persone interessate al tema sicuramente. Ma anche persone che addetti al settore. Lo scopo di Uvisions è proprio connettere e creare dei punti tra queste due sfere. Quando si parla di Europa sociale, più l'Europa delle unioni o l'Europa delle divisioni? Nel senso, è una fotografia con tanti punti comuni o è una fotografia dove risaltano soprattutto le differenze? Ma sicuramente è una fotografia con tante differenze per adesso, insomma, dovrebbe essere una fotografia però con più unione, almeno a parole questo è quello che si ripete spesso. L'Europa sociale è sicuramente una delle chiavi di volta, se non quella principale, per ristrutturare l'Unione Europea in vista di superare non solo gli effetti della crisi, ma essere in grado poi di resistere meglio alle crisi che probabilmente verranno negli anni futuri. Ci sono, se non erro, anche degli approfondimenti o insomma degli aggiornamenti tematici in questo momento. Schengen e Brexit al centro della piattaforma? Sì, noi proponiamo tra le altre anche analisi dei social media, che sono forse la parte più innovativa e che riesce più a proporre analisi in tempo reale rispetto alle analisi magari più approfondite, più di ampio respiro che proponiamo. Al momento Brexit è un tema caldissimo, come ha detto giustamente lei. Stiamo proprio in questi giorni analizzando un set di tweet di circa 8 milioni di tweet, e tra qualche giorno verremo fuori con un'analisi che sarà in grado di dirci non solo il tono dei dibattiti sul tema, ma anche dirci qualcosa sulla geografia di questa discussione. Infatti mi stavo chiedendo, è un tema caldo solo in determinate zone, solo in determinate nazioni, o è un tema caldo diffuso in tutta l'Unione? Ma allora, la Brexit al momento è un tema caldo dappertutto, ovviamente con i picchi che potete immaginare proprio nel Regno Unito, però appunto è diventata una discussione paneuropea. Quello che a noi interesserà vedere, e per questo invito tutti gli ascoltatori poi ad andare sul nostro sito tra pochissimi giorni, sarà la dimensione geografica anche all'interno del Regno Unito, perché come lei sa il dibattito sulla Brexit si gioca molto a livello anche regionale, certo, con la Scozia e l'Irlanda del Nord che potranno avere insomma conseguenze politiche molto importanti se la Brexit dovesse accadere. Ricordiamo il sito euvisions.eu, il nuovo portale appunto di riferimento. Grazie davvero al professor Tortola, buon lavoro a lei e tutto il suo team. Buon lavoro a lei, buona giornata. Europost-it. Eurodesk Italy Daily News. Volete essere sempre informati sulle opportunità di mobilità educativa transnazionale? Perché pensate siano uno strumento potente e moderno per integrare, arricchire e rafforzare il vostro percorso formativo? Eurodesk Italy lancia una nuova iniziativa di informazione per giovani europei. Si chiama Eurodesk Italy Daily News ed è un servizio giornaliero di notizie tramite un canale Telegram dedicato. Ogni giorno, tutti i giorni, gli iscritti riceveranno sul proprio smartphone un messaggio relativo a opportunità rivolte ai giovani nei settori dell'apprendimento, dei tirocini all'estero e della cittadinanza attiva. Per saperne di più, visitate la pagina eurodesk.it/telegram. Sono aperti gli europei di calcio ieri sera con la prima partita, ma non solo, perché c'è stata un'altra manifestazione, c'è stato un altro europeo che ha visto non la sua apertura ma la sua chiusura a Roma, di un'iniziativa molto bella, una bella intuizione con tanta creatività. Jugend Sport, Let's Go Europe, le titolo, gli europei di calcio visti dai giovani studenti dei licei romani, un progetto promosso dall'ufficio di informazione del Parlamento Europeo in Italia e dal Festival della Diplomazia, che ha visto coinvolti 21 istituti scolastici con 24 classi di Roma abbinati ad altrettante nazionali che stanno prendendo parte alla kermesse francese. Quindi 24 scuole italiane, 24 classi, scusate, e 24 classi di 24 nazioni diverse. Quindi c'era tutto il programma, tutto una sorta di calendario degli europei, e la sfida era a colpi di striscioni che incitano i giocatori dei paesi gemellati, e striscioni che si possono vedere e leggere sulla pagina Facebook dell'Ufficio di Informazione in Italia del Parlamento Europeo. C'è tutta la gallery, perché la votazione era online, e abbiamo con noi i vincitori. Quindi diamo il benvenuto a Giorgia Dal Prato. Buongiorno. Dell'Istituto Benedetto Croce, gemellato con la Romania. Ciao Giorgia. Buongiorno a te. A tutti. E poi invece Istituto Istruzione Superiore a Maldi di non so dove, era gemellato con la Svezia, e c'è Veronica Sbardella. Ciao Veronica. Ciao a tutti. Di dove? Roma, ovviamente, perché Roma, erano tutte sì, di Roma, che l'avevo già detto, quindi per quello non c'era scritto. Allora Giorgia, come è andata questa esperienza? Cosa avete fatto di concreto? Avete conosciuto quest'altra scuola? Vi siete iscritti a distanza? Come si è evoluto il progetto? Allora, noi abbiamo iniziato il progetto in classe, ci siamo divisi in gruppi, e ogni gruppo ha avuto idee diverse per creare poi lo striscione. Poi abbiamo fatto un incontro con i rappresentatori dell'ambasciata di Romania, sì, e che ci ha raccontato molte cose sulla Romania, e da lì poi è nato appunto lo striscione. Striscione che avete ideato voi da, sì, soli come classe italiana, o in collaborazione con la scuola rumena? No, l'abbiamo ideato solo noi, okay, insieme al rappresentante dell'ambasciata di Romania. Qual era il vostro striscione? Qual era il messaggio che avete utilizzato? Allora, nel nostro striscione avevamo una frase principale, Jésus Romain, tra parentesi, la U, che appunto rappresentava sia la Francia, perché la partita che c'è stata ieri sera, Francia-Romania, e poi volevamo anche ti sei persa, dove sei? Torna tra noi. Abbiamo usato Gesù anche per richiamare attenzione sugli attentati avvenuti in Francia, che hanno unito tutto il mondo tutto il mondo. Certo, quindi ecco, intanto l'ho trovato, sono andata a sfogliare la gallery, Je suis Ro, poi c'è Humaine, ovviamente tra parentesi la U, e facciamo vedere al mondo da dove siamo, facciamo vedere chi siamo, questo è il messaggio con una bella grafica sotto. Complimenti Giorgia, è veramente un bel lavoro. Veronica, invece voi come avete agito? Allora, noi abbiamo prima incontrato i rappresentanti dell'ambasciata svedese e ci hanno chiesto cosa pensate quando vi dicono Svezia, e abbiamo tutti risposto Zlatan Ibrahimovic. Quindi diciamo che il rappresentante, il protagonista del nostro speech è stato proprio lui, a cui abbiamo dedicato anche la frase per il tipo della Svezia. E quindi poi abbiamo pensato tutti alla frase, e alla grafica invece si sono occupati due ragazzi con insomma i vari siti Photoshop. Quindi è stato un lavoro abbastanza difficile. Qual è il messaggio che avete utilizzato per lo striscione? Noi abbiamo chiesto a Zlatan di farci un gol e di dedicarci un gol, di aspettare tutti quanti un gol della Svezia. Ok, quindi insomma è proprio lui l'immagine di questo, di questo rapporto tra Italia e Svezia. Europarla.it è il sito, oppure le pagine Facebook dell'ufficio di informazione in Italia del Parlamento Europeo per vedere i 24 lavori delle 24 scuole italiane. Ciao Giorgia, ciao Veronica, grazie. Ciao a tutti, ciao. Un Europost-it, ci fermiamo per la pubblicità, poi ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. Concorso per studenti No Hate. Il MIUR ha aderito alla campagna di sensibilizzazione No Hate Speech Movement del Consiglio d'Europa per la lotta all'odio e all'intolleranza sul web. Si tratta di un'iniziativa che ha l'obiettivo di promuovere tra gli studenti comportamenti che contrastino messaggi discriminatori e razzisti online. Il Ministero ha predisposto per le scuole la traduzione di un estratto del manuale elaborato dal Consiglio d'Europa, sulla base del quale gli allievi potranno produrre contenuti scritti o multimediali. Gli elaborati dei ragazzi dovranno essere inviati in formato digitale alla Segreteria della Delegazione Parlamentare del Consiglio d'Europa presso la Camera dei Deputati all'indirizzo email nohate@camera.it. Per maggiori informazioni, generazioniconnesse.it e istruzione.it. L'altra Europa. So go, but be kind. You have love on your side. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'altra Europa, @ Federico Taddia su Twitter e su Facebook, potete seguirci lì, trovare tutti i link relativi agli argomenti che stiamo toccando, la puntata invece la potrete scaricare e riascoltare dal nostro sito radio24.it, lì trovare anche tutti i contributi extra relativi agli Europost, per esempio le dritte, le segnalazioni che in ogni puntata vi facciamo. Andiamo avanti con una storia, sono quelle storie che ci piace raccontare perché narrano un'altra faccia dell'Europa, quella che ci piace, che è l'Europa delle possibilità, delle opportunità, l'Europa che fa circolare le buone pratiche. Storie che hanno dei protagonisti, spesso hanno anche giovani protagonisti, come ci piace andare a scovare qui all'altra Europa. Diamo il benvenuto oggi a Gianluca Janiro, che è un gastroenterologo giovanissimo, 31enne, ed è entrato a far parte di questo staff, di questo gruppo. Sono in 8 e compongono la Young Talent Group della, di fatto della Società Europea di Gastroenterologia. Sono un gruppo di giovanissimi e viene rinnovato, perché quando compi 35 anni vieni invitato ad uscire, perché appunto non sei più giovane. Lui invece ha avuto l'onore di entrare in questo gruppo e inizierà ufficialmente a gennaio. Buongiorno Gianluca, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno a voi, buongiorno Federico e buongiorno a tutti gli ascoltatori di L'Altra Europa. Allora, eccoci qua. 31 anni va bene essere considerato giovane o sì? Perché insomma, sì. Io ho iniziato a sentirmi poco giovane già dopo compiuti 25 personalmente, però diciamo che va bene, diciamo che anche in Europa siamo considerati fino a 35 anni, almeno per le società scientifiche, ancora giovani, quindi anche con tutte le agevolazioni che i giovani possono avere, quindi non so, riduzione delle fee per i congressi, eccetera, corsi dedicati e così via. Uh-huh. E tu, diciamo che, prego dimmi. Sì, diciamo che una delle diciamo dei task, delle compiti di questo staff, di questa commissione, è proprio di spingere sempre di più le opportunità per i giovani in Europa con la società europea, per i giovani gastroenterologi. Infatti questa era un po' la domanda, capire che quale sarà il tuo ruolo. Tu sei di origine molisane, sei di Campobasso, sei prossimo alla specializzazione al Policlinico Gemelli, se non erro, l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Hai all'attivo già tantissime pubblicazioni, adesso questo compito in più. Su cosa spingerai? Quali sono i punti critici dove speri di poter dare un contributo? Allora, fondamentalmente ritengo che sia quello di cui mi occupo, ovvero la ricerca scientifica, che nei giovani sta mancando ultimamente. Vi faccio un esempio: un articolo inglese pubblicato qualche anno fa, quindi si parla di Inghilterra, non di Italia, sì. Quindi una nazione che noi consideriamo anche al top per le opportunità di ricerca scientifica. Bene, fa vedere come i lavori pubblicati durante il corso della specializzazione da un gastroenterologo X in una grande coorte diminuivano a picco dal 95 fino al 2013. Quindi rilanciare la ricerca scientifica e soprattutto la fiducia nella ricerca scientifica è uno dei compiti che sicuramente io mi prefiggerò e in cui riterrò di poter contribuire all'Orientalent Group. Uh-huh. E ho letto diverse interviste dove insomma ricalchi con piacere e con passione le tue origini, giustamente. Sì. Cosa vuol dire per te mettere insieme il proprio territorio, la propria provincia, il proprio paese con l'Europa? Quindi queste due dimensioni molto local e molto global di fatto. Io questo, guarda, ringrazio di essere nato in provincia, perché ritengo che la provincia ti dia da una parte alcuni input, nel senso che hai comunque un accesso a della musica, a dei libri, a una biblioteca, però purtroppo poi, considerando Campobasso che è una città molto fredda in cui fa spesso brutto tempo, devi e non puoi andare al mare perché è lontano e non hai molte altre diciamo possibilità di svago. Io da adolescente ho accresciuto molto la mia cultura, io ma come tanti miei coetanei, abbiamo creato tantissime opportunità, tantissimi eventi, tantissimi momenti di aggregazione di cultura, e devo dire che quindi la provincia in questo mi ha aiutato, nel senso che mi ha spinto per creare da me quelle che potevano essere nuove opportunità piuttosto che prenderle quelle già fatte, rispetto a una grande città, per esempio. Quindi devo dire che la provincia, specialmente una provincia in cui c'è brutto tempo 9 mesi all'anno, sicuramente possono contribuire a darti quella spinta. UEG.eu è il sito della Società Europea di Gastroenterologia. Grazie davvero Gianluca, in bocca al lupo per la tua nuova attività, poi magari ci risente quando sarai in pieno, appunto sarai già attivo, così ci racconti quello che state combinando. Buon lavoro. Molto volentieri, grazie. Grazie, ciao, buon sabato. Europostit. Questionario Forum Nazionale Giovani e Agenzia Giovani per costruire un'Europa diversa. Cosa vuol dire essere giovani in Europa? In che modo l'Europa potrebbe migliorare le condizioni e le possibilità delle nuove generazioni? Il Forum Nazionale dei Giovani e l'Agenzia Nazionale per i Giovani, in collaborazione con altri enti pubblici e privati, hanno lanciato un questionario al quale i giovani stessi potranno rispondere per contribuire a rendere questa Europa più youth-friendly e maggiormente vicina ai loro bisogni e aspettative. L'obiettivo è quello di dare la possibilità alle nuove generazioni di riflettere e impegnarsi per un'Europa diversa, connessa e inclusiva. Il questionario sarà disponibile online fino al 17 luglio 2016 sui siti forumnazionalegiovani.it e agenziagiovani.it. Due anni fa, quando c'era stato il primo contingente che è arrivato ad Asti, avevo partecipato a una riunione della prefettura sapendo che dal giorno dopo sarebbero arrivati 40 persone richiedenti asilo. Eila! Ciao Seni! Ciao! Ciao! Ciao, ciao Seni! Ciao! Come va? Tutto bene? Tutto bene? Tutto bene, anche tu? Ho saputo che c'era qualcuno che era stato affidato in famiglia e sono venuta a casa. Praticamente nel giro di 3 ore abbiamo deciso. E la settimana dopo è venuta l'educatrice del PIAM e la mediatrice culturale, hanno visto il posto, abbiamo parlato un po'. E il sabato Seni è arrivato. Quello che state ascoltando è un estratto di un documentario che fa parte di un progetto intitolato Welcome to Italy, 5 reportage sull'accoglienza dei migranti nel nostro paese, e video pubblicati dal sito di internazionale.it, progetto coordinato da Stefano Liberti, che abbiamo il piacere di avere qua con noi. Ciao Stefano. Ciao, buongiorno. Welcome to Italy, una provocazione questo titolo? Ma diciamo che è un po' provocatorio, perché noi abbiamo cercato di raccontare l'accoglienza dei migranti in tutte le sue forme, ed è un sistema molto diverso, molto articolato, che presenta moltissimi punti oscuri e anche alcune storie di eccellenza, ma in generale diciamo è ancora un sistema molto deficitario e molto poco strutturato, soprattutto in rapporto a come è parte del nostro vissuto il fenomeno dell'immigrazione in Italia. Certo, le parole che stavamo ascoltando per esempio sono quelle di una storia privata, vero? La storia di Agnese Bianco, un assistente sociale di Asti, che con il marito Andrea e il figlio 12enne Jacopo, se non sbaglio, ha deciso di accogliere un rifugiato a casa loro, a casa sua. Sì, si stanno diffondendo un po' a macchia d'olio in tutto il paese. Il progetto del PIAM ad Asti è uno dei più pionieristici, uno dei primi che ha lanciato questo tipo di accoglienza privata, in cui si coinvolgono delle famiglie che accolgono richiedenti asilo e che li accompagnano anche in un processo di inclusione e di integrazione. E dei progetti che funzionano molto bene, ma che però spesso e volentieri poi si concludono nulla di fatto, perché le persone che sono accolte, che magari stanno in famiglia 6 mesi, a volte un anno, poi alla fine la loro richiesta di asilo non viene accettata dalle commissioni territoriali, e quindi si ritrovano in qualche modo a diventare clandestini, ad essere senza documenti, e quindi a tutto il processo di inclusione nel tessuto sociale del nostro paese diciamo, si ritrova vanificato, e anche le risorse che sono state messe in campo si ritrovano spese per niente. Stefano, ti chiedo un minuto di pazienza, diamo le informazioni per chi sta viaggiando, poi torniamo immediatamente da te. L'altra Europa. Internazionale.it, il sito dove sono pubblicati 5 video coordinati da Stefano Liberti, Welcome to Italy, modi diversi, modi nuovi, modi anche divergenti di fare accoglienza, modi che esprimono, raccontano, denunciano anche le lacune e le criticità. Stefano, qual è l'urgenza, qual è la necessità di raccontare queste storie? Per muovere cosa? Ma innanzitutto per mostrare come funziona l'accoglienza in Italia, perché spesso se ne parla, molto se ne parla, soprattutto nei mesi estivi in cui aumentano gli arrivi sulle nostre coste, e spesso il dibattito è fatto senza che si conosce sulla realtà sul terreno. Quindi noi siamo andati a cercare delle situazioni che ci sembravano emblematiche per raccontare un sistema che è un sistema complesso e molto articolato, come dicevo prima, perché poi la persona che arriva, il migrante, il richiedente asilo che arriva in Italia, può essere inserito in diversi percorsi di accoglienza, alcuni dei quali sono molto deficitari, e molto poco efficienti, altri invece sono molto più funzionali. Quindi noi quello che abbiamo cercato di fare è descrivere le situazioni mettendo in luce, come dicevi anche tu, punti oscuri, eccellenze e lacune. Quello che, diciamo, il dato che emerge è che appunto c'è una grande casualità nei percorsi, cioè che la persona per ragioni assolutamente incomprensibili può finire in un grande centro di richiedenti asilo come quello famoso a Mineo, sì, vicino a Catania, dove sono 4.000 persone più o meno accatastate lì in attesa di conoscere il loro destino, oppure in una situazione di, in un percorso di inclusione come quello che abbiamo raccontato ad Asti, in cui il richiedente asilo è inserito in una famiglia e quindi, come dire, si inserisce nel tessuto sociale del paese e attiva un percorso di inclusione che poi potrebbe anche essere virtuoso. Grazie davvero Stefano, complimenti per l'ottimo lavoro, come sempre. Grazie a voi. Ciao, buon sabato. Ciao. Ciao. Si chiama Souk Festival, la musica che state ascoltando, la musica di sottofondo del trailer dell'edizione 2016 di questo festival che fa parte di EFEL, Europe for Festival, Festivals for Europe, Festival d'eccellenza europee, souk-genova.it il sito, tutto ciò dal 16 al 26 giugno 2016. Di cosa si tratta? Ne parliamo con Carla Peiro Lero, ideatrice e direttrice artistica del festival e fondatrice dell'associazione Scienze Eventi. Ciao Carla. Ciao a tutti e grazie di ospitarci in questa bellissima trasmissione, e vi aspettiamo poi al Souk, saremo lieti di ospitarvi noi a quel punto dal 16 al 26 giugno, dove devo dire c'è solo l'imbarazzo della scelta, perché incontri, teatro, spettacoli, ma anche tante opportunità di stare semplicemente insieme, 15 cucine diverse da assaggiare, 40 botteghe da visitare con artigianato dal mondo e approfondimenti sull'attualità, mi sembra importante in questo momento. Far incontrare culture diverse, fare contaminare tra di loro esperienze diverse, è un po' questa la forza, la missione, il cuore del vostro festival. Ma sì, devo dire che è nato come scommessa appunto 18 anni fa, siamo ormai maggiorenni e quando con Valentina Arcuri l'abbiamo ideato è stata un po' una scommessa contro i luoghi teatrali, noi veniamo dal teatro, istituzionali o comunque consueti. Ci accorgevamo che il pubblico era un po' sempre lo stesso nei teatri e nei musei, mentre invece in giro per i vicoli della Genova, ma insomma come in tante grandi città della nostra Italia, c'era davvero un mondo che stava cambiando. E quindi è stata un'idea così di ricostruire teatralmente un souk che potesse rappresentare attraverso appunto la cucina, le tradizioni, l'artigianato, le tante culture, il viaggio che gli altri ci portano. Devo dire che nel tempo il mondo è cambiato, quella che sembrava allora così una curiosità di conoscenza è diventata un'emergenza, cioè adesso c'è proprio bisogno di fare integrazione, di fare inclusione attraverso la cultura. Certamente non è semplice, non è facile, però credo che il fatto di 2 anni fa noi siamo stati riconosciuti best practice europea, ritorniamo all'Europa, proprio per il fatto di per il dialogo tra culture, per la promozione della diversità, in qualche modo esaltiamo anche la bellezza della diversità. Certo, ovviamente, sì. No, leggevo Generazioni, Memoria e Futuro è un po' il tema di quest'anno, un programma ricchissimo, musica, teatro, incontri, veramente un souk creativo anche nella proposta. Leggevo anche una giornata particolare in occasione del 20 giugno, che è anche la giornata mondiale del rifugiato, che avete scelto di celebrare con un programma molto intenso. Sì, direi che è un po' il cuore del festival, che inizia il 16 e finisce il 26. È una giornata che noi abbiamo sempre celebrato quindi in maniera speciale, dedicandola tra l'altro al ricordo di un grande amico e anche in parte compagno di scena della nostra compagnia teatrale, cioè Don Andrea Gallo. Don Gallo è sempre stato molto vicino a noi e lui insomma è sempre stato attento agli ultimi, al tema del restare umani. Noi però lo facciamo con dei punti di vista, ci tengo molto molto a dire che al di là della serata con il presidente di Medici Senza Frontiere Italia, con Paola Caridi, con Jumane Haddad, che arriva dal Libano apposta a raccontarci, da grande scrittrice libanese ma attenta anche a quello che accade nel mondo, anche la situazione dei profughi siriani in Libano, poi Marco Haim, antropologo, anche lui grande colonna del Festival Souk, che ha scritto recentemente contro il razzismo, ma ci piace anche farlo con un incontro pomeridiano quando i profughi eravamo noi, che racconta l'odissea dei bambini che dalla Libia partono nel 1940 per semplicemente una vacanza e restano poi imbloccati in Italia senza genitori perché scoppia la guerra, e praticamente per 7 anni vivono profughi loro in vari istituti, in vari luoghi, addirittura anche a Cinecittà alcuni, in situazioni veramente molto, molto precarie, e avremo un testimone di quel periodo, una persona che a 7 anni appunto parte dalla Libia, perché c'erano i coloni appunto, sì, italiani giù, e arriva qui e praticamente torna dai genitori a 13 anni. E alla sera poi c'è, e questo è di nuovo un altro punto di vista, scusate se non siamo morti in mare, una giovane compagnia, Mami Mo, con la regia di Pablo Solari, che invece ci presenta come potrebbe essere il futuro, cioè in Europa partiamo noi, partono i giovani, un po' sta già succedendo mi sembra, sì, i migranti, quindi direi che non c'è soltanto il rifugiato, diciamo, di cui si parla, richiedente asilo, ci sono punti di vista. Generazione, memoria e futura, sucgenova.it, grazie davvero Carla, e con questa bella segnalazione chiudiamo la puntata di oggi. Un grazie a Claudia Schiattone, a Paolo Corleoni in assistenza, Miriam Lucchetti e Silvia Righini che con me hanno scritto la puntata. L'appuntamento come sempre a sabato prossimo. Ancora ciao da Federico Taddia. L'altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.